Il tuo cuore Dio ha creato per amare, senza limiti controlli questo amore. Tu per lui sei una semplice attrazione e ti perdi nei suoi giochi di parole. Parli solo con la tua amica del cuore, condivide fortemente il tuo dolore. Tu sei troppo innamorata di sto aglione. Io vo bene pure si te fa sta male. Ricchermi tornerà con una maschera dove nasconde la sua vera identità. Tu non ci vuoi pensare, non ci vuoi credere, t'avemo solo per favore se ne va. Se lui ritornerà come una stupida, improvvisata di sto sulla tua. Senso alla vita, cerca di riflettere un poco da sola, chiusa in camera desiente sta canzone, perché sia protagonista di questa storia, spinge forte una lacrima dal cuore. Riccardi tornerà con una maschera dove nasconde la sua vera identità. Difficile da un senso alla vita.